Eccoci, Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito internet della radio ondarossa.info sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale basta consultare il sito. Sull'home page, nella colonna centrale, c'è Trasmissioni e Visionari. Idem per la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Un ospite non dichiarata è Simona Fasulo, che mi ha fatto sapere ieri per posta elettronica che l'8 marzo prossimo, martedì, ci sarà un suo documentario dedicato ad Anna Magnani in programmazione in TV. Ci sei, Simona? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Sì. Grazie, ben ritrovato. Allora, sì, l'8 marzo, il giorno della festa della donna, ma non è soltanto per questo che mandiamo in onda l'8 marzo su Rai Storia questo documentario su Anna Magnani, anche perché il 7 marzo sarebbe stato il suo compleanno, di Nannarella. E avrebbe compiuto quest'anno ben 108 anni, perché essendo del 1908. E che poi è scomparsa, insomma, non era neanche troppo anziana, aveva intorno ai 65 anni, se non sbaglio. Aveva soltanto 65 anni, sì, era molto giovane, era nel 73 è scomparsa. Sì. E tra l'altro quest'anno, 2016, cadono anche i 60 anni dall'Oscar, perché Anna Magnani, magari non ce lo ricordiamo tutti, ha vinto un Oscar come migliore attrice protagonista della Rosa Tatuata. E lei addirittura non è nemmeno andata a prenderlo questo Oscar, perché non se l'aspettava proprio, non credeva proprio di vincere. E anche perché, diciamo la verità, lei viaggiava solo in nave, per cui arrivare negli Stati Uniti sarebbe stato un po' complicato. Lungo. Sì, sì. Sì. Senti, Simona, come hai costruito questo documentario? Allora, trattandosi di Rai Storia, ovviamente ho cercato di dare un taglio storico, sì, è la sua biografia, fa parte di questa serie di Paolo Mieli che si intitola Italiani, il documentario, essendo è la biografia di Anna Magnani, che è una grande italiana, appunto, ma ho voluto anche ripercorrere un po' la storia delle donne della sua epoca, perché, insomma, se ci pensiamo, lei ha cominciato giovanissima a fare l'attrice, si è iscritta all'Accademia d'Arte Drammatica, che non si chiamava neanche così, si chiamava Accademia Eleonora Duse, tantissimo tempo fa, che lei appunto era molto giovane, e le donne allora non è che facessero vita pubblica, diciamo la verità, e non solo, per esempio lei ha cominciato a guidare negli anni 30, le donne in Italia non guidavano. Nel 42 ha avuto una figlia fuori dal matrimonio, e nel 42 c'è la legge di famiglia, ha per la prima volta detto appunto che il padre era il capo famiglia, e che quindi era lui che l'uomo si doveva occupare di tutto. Insomma, le donne non erano e non sono, questo detto tra parentesi, messe molto bene ancora, però, insomma, ai suoi tempi lo erano ancor meno. E lei invece è stata una donna che ha sfidato un po' le regole del tempo, con una grande dignità e una grande forza. Non si è mai appoggiata agli uomini. Ecco, per esempio, il figlio che ho intervistato e che sentirete l'8 marzo sera, diceva: lei ha combattuto come un maschio, in un mondo peraltro che era il mondo del cinema, che era un mondo assolutamente maschilista. Allora c'era una sceneggiatrice che era Suso Cecchi D'Amico e pochissime altre si affacciavano dal punto di vista degli autori, diciamo così, no? Sì, sì, sì. Le sì, attrici erano quelle quando lei ha cominciato, erano al cinema, erano quelle dei telefoni bianchi, quindi tutte carine, sì, tutte elegantine, tutte biondine. Lei era assolutamente mora, forte, volitiva, no? Quindi una donna diversa che ha fatto e in realtà ha veramente segnato un'epoca. Senti, il titolo di questo documentario? Il titolo è Anna Magnani dalla luna con amore. Senti, volevo chiederti... Non tutti sì, si ricordano, o non tutti sanno, che Yuri Gagarin, nel primo volo nello spazio, disse: saluto Anna Magnani, la fraternità del popolo, le arti e Anna Magnani. Insomma, voglio dire, quindi proprio dallo spazio con amore, diciamo così. Per dire quanto era importante, quanto era famosa, sì, quanto sì, sì, era sì, veramente importantissima, e noi spesso non ce la ricordiamo, molti ragazzi non sanno neanche chi sia. Senti, che tipo di materiali hai usato, oltre alle interviste che ci dicevi, hai usato anche materiali d'archivio, hai avuto accesso a una documentazione di famiglia, come ha funzionato? Ho usato tanto materiale d'archivio, perché ovviamente ce n'è tanto, la cosa più importante è la lunga intervista che lei ha rilasciato a Pietro Pintus nel 65, mi pare, no? Nel 65, sì, quando ha ripreso a lavorare in teatro con la Lupa di Verga e con la regia di Zeffirelli. Questa è l'intervista più lunga, diciamo. Dopodiché ci sono, lei non amava molto la televisione, anche se poi alla fine ha fatto 4 film per la televisione, però erano girati come fossero cinema, insomma. Lei non amava molto la televisione, non si fidava molto, in fondo era uno strumento relativamente nuovo per lei, no? Quindi non è che sia apparsa tante volte, anzi la prima volta che appare in televisione credo che sia proprio alla morte di Totò, che era suo grandissimo amico, e appare in televisione per ricordarlo. Però ci sono materiali d'archivio, naturalmente ci sono tante cose anche in pellicola, e poi ho usato molti film, i film che appunto sono che è possibile utilizzare, diciamo così, e sono fantastici. Ho scelto, a proposito di donne, appunto, per esempio c'è l'onorevole Angelina, che forse ricorderai. Come no? Di Zampa. Di Zampa, che parla di questa donna della borgata romana, siamo a Pietralata nel 47, e il voto alle donne è stato appena concesso, da un anno, perché sì, il voto alle donne, esatto, è stato dato nel 46, quindi e lei, questa donna con 7 figli, che tutto a tutto pensa meno che alla politica, invece, per riuscire ad ottenere anche per le sue compagne e per le famiglie che ha intorno, le case, le cose che insomma rispettano di diritto, si mette in politica, anche se poi tornerà a casa. In realtà alla fine siamo comunque in Italia, eravamo comunque nel 47, le donne a casa dovevano stare. Però voglio dire, c'è anche questo film tra quelli che ho scelto di utilizzare. Poi ce ne sono tanti altri, c'è Campo dei Fiori, siamo nel 43 con Aldo Fabrizi, si parla appunto di una donna invece come erano viste sempre dagli uomini sceneggiatori dell'epoca. Queste donne, gli uomini erano tutti un po' mascalzoni, come si dicevano, e le donne erano, cioè la cosa importante insomma era farci una famiglia, era diventare madri, avere una famiglia, non rimanere zitelle. Esatto, quella era la cosa importante. Senti, Simona, molte cose sono cambiate, sì, per sì. Simona, per saperne di più su questo lavoro, ma anche sulla tua attività più in generale, hai uno spazio? No, io non ho un sito, penso sempre di farlo e non lo faccio mai. Allora a questo punto diamo direttamente l'appuntamento per l'8 marzo alle 21:30 su Rai Storia con Anna Magnani, Dalla Luna con Amore di Simona Fasulo. Sì, vi aspetto tutti, cioè Anna Magnani vi aspetta, Nannarella. Nannarella. Grazie Federico. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Simona. Grazie, arrivederci. Simona Fasulo, regista del documentario Anna Magnani, Dalla Luna con Amore. E come ogni mese, Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso per le novità di questo mese. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Come va? Bene, bene, sì, anche questo mese abbiamo coinvolto nel catalogo e invitato nella nostro network nuovi progetti, sia sul fronte editoriale che sul fronte di film e documentari, per cui siamo decisamente attivi in tal senso. Allora, ci era scritto nella newsletter febbraio, anche se in realtà siamo già a marzo. Dici un po' cosa ci aspetta su Distribuzioni Dal Basso. Sì, per questo mese abbiamo accolto in catalogo tre tipi di progettualità diverse e per le quali siamo in tutti e tre i casi molto contenti. Il primo appunto è un documentario, quindi nel catalogo, nella sezione documentaria del catalogo, e si chiama Alone We Stand, che è un interessantissimo lavoro che racconta questa storia di uno spettacolo teatrale scritto e costruito da due compagnie teatrali, una italiana e una palestinese, e che subisce appunto il problema della segregazione che, ahimè, conosciamo bene, che subisce ogni giorno il popolo palestinese. E tutto iniziato con il rifiuto da parte dello Stato di Israele di far entrare in West Bank il regista, che è questo regista bolognese dello spettacolo teatrale, e per ovviare a questo problema decidono di continuare tutto il lavoro di prove di progettazione via Skype, e riescono a portare a termine l'opera e a poi appunto a poter costruire appunto questa opera teatrale. E sì, il lavoro, oltre che essere molto ben fatto, ci permette di vedere sotto anche una chiave diversa, comunque attraverso una storia particolare, quello che invece è la purtroppo quotidianità che subiscono le persone appunto che vivono nell'area della West Bank da diverso tempo. E ci è sembrato molto importante inserirlo e promuoverlo, proprio perché dà un punto di vista un po' particolare, mostra quello che sono le conseguenze dell'occupazione israeliana nei territori. Sì, sì, sì. Dopodiché sì. Abbiamo inserito nella sezione cinema sperimentale, quindi un'altra sezione a parte, e Il tempo del no tempo, che è un lavoro appunto più legato al cinema sperimentale, che ha realizzato Nomadica nel 2013. È ufficialmente il primo lavoro di Nomadica che entra a far parte del catalogo, per cui siamo molto felici di questa novità, anche perché appunto con Nomadica ci conosciamo da tanti anni. Per chi non lo sapesse, Nomadica è un progetto che si è mosso in questi anni, ben prima di noi tra l'altro, e sia da un punto di vista del cinema di ricerca, del cinema autonomo, ma soprattutto non abbiamo mai nascosto che l'essenza stessa del nostro progetto editoriale di distribuzione al basso, all'epoca in cui stavamo ragionando su come farlo nascere, ha preso tantissimi spunti di riflessione e tantissima ispirazione dalle esperienze pregresse che ha fatto Nomadica negli anni precedenti. Anche loro avevano appunto in passato una formula di catalogo che non era digitale ma era in quel caso itinerante, ma anche loro hanno sempre avuto come obiettivo principale quello di creare reti tra autori ed esperienze indipendenti. Senti, per cui questo passo per noi è stato veramente bello. L'ultima sezione invece, l'ultima novità del mese che proponiamo, dopo quelle che vi stavo raccontando, è invece una importantissima novità legata alla sezione editorie. Come vi avevamo raccontato il mese scorso, e la cosa molto bella e importante che sta succedendo in questi mesi è che i modelli di accessibilità e di sostenibilità alternativa che noi stiamo sviluppando facendo leva sul Creative Commons si stanno dimostrando assolutamente replicabili anche in altre esperienze oltre a quella del documentario, da cui siamo partiti essendo noi stessi documentaristi. Per cui a gennaio di quest'anno abbiamo deciso di provare a entrare anche nel ragionamento rispetto a quello che sono esperienze di editoria indipendente, perché abbiamo rilevato che anche in quell'ambito c'è tanto lavoro da fare e ci sono dei paradossi da affrontare e da buttare giù, e abbiamo iniziato appunto gennaio già con alcune proposte, ma questo mese c'è stato un grande importante passo, ovvero è arrivata la prima collaborazione con una casa editrice indipendente di Bologna che si chiama Bebert Edizioni, che da anni fa non solo un lavoro di scelta editoriale molto interessante, ma sono già anche loro molto in linea con il nostro percorso rispetto all'utilizzo delle Creative Commons. per cui abbiamo fatto una vera e propria fusione a tutti gli effetti, ovvero tutto il loro processo e progetto editoriale ora è interamente sul portale di distribuzione al basso, e questo secondo noi è un passo importante non solo per la stima che abbiamo per rispetto al loro progetto editoriale, ma come d'altronde abbiamo anche per tanti altri progetti simili a loro, ma proprio perché l'obiettivo, sempre quando si fa quel ragionamento legato al networking, è proprio questo, cioè iniziare piano piano ad aggregarsi tutti all'interno di un'unica grande rete di autori ed esperienze indipendenti, per unire le forze e per fare in modo che l'immaginario su cui si basa tutto il ragionamento distributivo possa rafforzarsi sia in termini di reti e di community che si aggregano, sia in termini anche di legittimità di questo percorso di sostenibilità e di accessibilità ai progetti creativi. Mm-hmm. Per cui quello che è accaduto è stato per noi veramente un passo importante. Rispetto alla replicabilità dei modelli che ci siamo dati e alla sua moltiplicazione su altre esperienze, ti annuncio già che il mese prossimo, cioè durante questo mese che si apre di marzo, apriremo un'ulteriore nuova sezione legata invece al reportage e al mondo delle inchieste, con il lancio di questa prima inchiesta, che è stata l'inchiesta vincitrice del premio Morione 2015, fondi rubati all'agricoltura. Non so se ne avete sentito parlare, è andata anche in onda su Rai News qualche mese fa, e grazie anche a questo lavoro appunto di questi due giornalisti emergenti e indipendenti come noi d'altronde, apriremo un'ulteriore area, diciamo, del progetto distributivo. Tutto questo, come dicevo prima, si basa proprio sull'intenzione di fare in modo che questi nuovi modelli di accessibilità e di concepire la diffusione delle opere creative di vario genere si rafforzi sempre di più e si diffonda sempre di più attraverso anche altre diverse comunità, diversi gruppi di aggregazione che ritengono questo modello in qualche maniera il futuro a cui andare incontro. A proposito del far rete, a questo punto, nel salutarci, Paco, lo dico anche e soprattutto a chi ci ascolta, che Radio Onda Rossa su una pagina di Produzioni dal Basso ha aperto una pagina di sottoscrizione. Ottimo, infatti, e d'altronde è proprio questo secondo me il punto, cioè cercare ogni giorno di provare anche a sperimentare dei modelli e dei metodi che ci permettano a tutti, ognuno nel suo modo e ognuno con le proprie attitudini in qualche maniera, di riuscire a continuare a sviluppare progetti che siano veramente indipendenti, nel senso che la sfida di questo momento storico, secondo noi, legata anche chiaramente alla situazione in cui stiamo vivendo, perché è ovvio che tutto parte da uno stato di necessità, è proprio quello di tornare a dare un significato e un contenuto alla parola indipendente, che sappiamo bene è stata spesso abusata anche con fini non del tutto lodevoli in altri settori, come quello musicale, che ha comunque ha generato anche delle contraddizioni in qualche maniera, se vogliamo, e per cui c'è bisogno di tornare a capire e a ridefinire cosa significa veramente indipendente. Per noi indipendente significa poter sviluppare i propri progetti, poterlo fare senza dover rendere conto a un padrone e soprattutto di conseguenza poterli condividere liberamente come meglio riteniamo opportuno, senza dover obbligare le persone a pagare 8 euro di biglietto del cinema, sì, per esempio. Bene, Paco, allora ci sentiamo prossimamente per le ulteriori novità. Un abbraccio e, come a sempre, un in bocca al lupo. Grazie anche a voi. Ciao, a ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. Allora, siamo in collegamento con Michele Trentini, regista del documentario Contadini di Montagna. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Michele. Ciao Federico, grazie a te e saluto tutti, buongiorno. Avevo avuto modo di vedere il tuo documentario all'interno del Clorofilla Film Festival, raccontiamolo in breve a chi ci ascolta, Michele. Ma i contadini di montagna è il racconto di un paesaggio molto specifico, un paesaggio terrassato, coltivato a vite, che si trova in una valle laterale, la Val di Cembra, una valle laterale del Trentino. E questo racconto, il racconto di questo paesaggio, ho scelto di farlo attraverso due coppie di persone, padre e figlio, padre e figlia, proprio per permettere loro di dialogare su temi che riguardano non solo il passato ma la contemporaneità, il futuro, per esprimere un po' le loro opinioni, insomma, alle volte concordi e alle volte invece curiosamente contrastanti. Senti, com'era nata l'intenzione? Allora, tutto parte da, diciamo, la raccolta di una serie di testimonianze su questo paesaggio. L'idea è nata da un'associazione che si chiama Imperial Wines, che collabora, ha collaborato con l'Associazione Italiana per i Paesaggi Terrazzati e con il gruppo Terre Alte del CAI. È da qualche anno che c'è una particolare sensibilità nei confronti dell'argomento del paesaggio, in particolare dei paesaggi terrazzati. Poi, raccogliendo queste testimonianze, mi sono accorto che alcune di queste avevano un loro valore specifico anche cinematografico, e ho deciso autonomamente, insomma, di realizzare un vero e proprio documentario, anche perché ho trovato del materiale in pellicola degli anni 60 girato da Giuseppe Scheberstein proprio negli stessi luoghi, e questo mi ha permesso di accostare le immagini vecchie, diciamo, datate, a quelle nuove, e questo è molto stimolante anche per lo spettatore, no? Perché permette di fare proprio dei confronti sullo stesso paesaggio, sì, sì, a 50 anni di distanza. Ci capita abbastanza spesso di trattare di documentari che si occupano di agricoltura in giro per il paese. In linea generale la tendenza è quella all'impoverimento soprattutto umano ma anche economico, un po' su tutto il territorio, però ci sono anche segnali e quindi anche un invecchiamento della popolazione contadina, però ci sono anche interessanti segnali di controtendenza con molti giovani che scelgono di tornare a lavorare la terra in maniera anche moderna e che fa rete poi. Volevo sapere un po' la situazione in Trentino e come si sviluppa. Beh, la situazione in Trentino, diciamo che è varia, non si può avere uno sguardo univoco. Ci sono, Trentino è fatto di vallate molto diverse, e ci sono le vallate dove va molto un certo tipo di turismo, lo sci, questo, diciamo, non solo di recente, no? E quindi si tratta di valli che si sono dotate di tutta una serie di strutture, alberghi, ricettive, insomma, per far modo che il turista abbia sempre qualcosa da fare, in un certo senso. Invece ci sono valli, come dire, non molte, però in parte spopolate. Quella della Val di Cembra che ho raccontato io, quella realtà è ancora più particolare perché è una valle non molto nota, non molto turistica, e questo è anche uno dei temi, diciamo, del documentario. Però per tutta la parte bassa, diciamo, è coltivata con le viti grazie a un microclima e una varietà che è Nulla Turgau, e questo fa sì che ci siano tantissimi contadini attivi oggi e anche molto giovani. Una di queste, diciamo, nuove tra virgolette contadine è Noemi, che è una delle protagoniste del documentario, e il suo, diciamo, che è lo sguardo all'interno del film più proiettato in avanti, più proiettato, diciamo, nell'oggi, nel futuro, che mi ricorda anche un po' la protagonista di un altro documentario che avevo fatto qualche anno fa, che è Cheyenne Dapra. Il titolo è Cheyenne 30 anni, che è una pastora che lavora qua in Trentino ancora, proprio per la cura e il mantenimento del paesaggio con il suo gregge. Senti, dopo il Clorofilla Film Festival immagino abbia proseguito il suo iter per quanto riguarda i festival. C'è in rete uno spazio specifico dedicato a questo documentario e più in generale al tuo lavoro? Allora, c'è un sito che è www.talkingstones.eu, quindi il Talking Stones sono le pietre parlanti, dove abbiamo inserito, diciamo, le conversazioni, i brani di interviste che non sono rientrati nel documentario, anche con altre, fatte anche con altre persone. Sì, il documentario, diciamo, è stato molto apprezzato perché affronta dei temi che sono molto attuali, e devo dire che c'è anche un bel circuito in Italia di festival come appunto il Clorofila Film Festival, che valorizzano questo tipo di film, ecco. Spesso quando posso accompagno il film alle proiezioni, perché è sempre interessante, c'è sempre da imparare anche per chi ha fatto il film, per l'autore. Bene. Michele, è stato un piacere, spero di averti presto con altre novità, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie Creppi, saluti a tutti ancora, ciao ciao. Ciao, ciao ciao. E questo era Michele Trentini, regista del documentario Contadini di Campagna, di Montagna, scusate. Ecco, siamo in collegamento con Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna per parlare con lui del restauro del film Rocco e i suoi fratelli, in uscita in sala il prossimo 7 marzo. Un attimo che è per strada, e quindi un attimo di pazienza, dovremo averlo con noi. Eccoci. Gianluca, ben ritrovato. Beh, è sempre bello essere con te, perché vuol dire che dobbiamo annunciare un nuovo figlio, un nuovo parto e una nuova avventura, e questa volta l'avventura si chiama Rocco e i suoi fratelli, uno dei grandi melodrammi della storia del cinema, uno dei capolavori di Luchino Visconti, un film che ha anche il fascino di avere mostrato al mondo la bellezza e la capacità, la fotogenia di Alain Delon, perché da questo film comincia la carriera di Alain Delon. E poi è un film credo molto utile oggi, perché è un film che parla dell'emigrazione, ma questa volta gli emigranti siamo noi italiani, e parla dell'emigrazione interna dal sud arcaico al nord moderno, alla Milano che guardava l'Europa e al mondo. Un film che oggi noi consideriamo un classico, ma che all'epoca fece molto scandalo per i temi che affrontava, per il realismo di cui Visconti era capace. Un film che fu anche sottoposto a una delle censure più incredibili e grottesche della storia del cinema, perché, lo voglio ricordare, il procuratore spagnolo decise di chiedere agli operatori di operare una censura durante la proiezione, apponendo degli oggetti davanti all'obiettivo per certe sequenze. Censura che evidentemente non poteva realizzarsi, oltre a essere veramente uno strumento assolutamente ridicolo. E un film che ebbe anche un enorme successo e che fu anche generò l'incontro tra uno dei maestri della storia del cinema e non solo, della grande cultura italiana, Luchino Visconti, è uno dei più geniali produttori che l'Italia abbia avuto, perché poi, ecco, spesso finiamo per parlare solo dei registi, in realtà poi questi film si sono potuti fare anche perché c'erano accanto ai registi dei produttori altrettanto grandi, e il produttore era Goffredo Lombardo, il patron della Titanus, che in qualche modo si innamorò di questo artista così unico come era Luchino Visconti, e quindi poi ebbe il coraggio di intraprendere la grande avventura e complicatissima avventura del Gattopardo. Gianluca, e che tipo di intervento di restauro c'è stato? Beh, questo intanto è un film in bianco e nero e siamo in una delle somme, delle vette dell'arte del bianco e nero. Il direttore della fotografia, il grande Peppino Rotunno. Il film abbiamo potuto recuperare il negativo originale che è stato scansionato a 4K. Il restauro è stato sovrinteso da Martin Scorsese e finanziato dalla Film Foundation con il supporto di Gucci. Era un restauro complicato per l'importanza di questo film, insomma, intervenire su Rocco e suoi fratelli è un po' come mettere le mani alla Cappella Sistina, ovviamente con tutte le debite differenze tra l'arte più nobile e l'arte più popolare, che è quella del cinema. Quindi il abbiamo potuto anche avere a disposizione delle copie d'epoca e quindi anche basarci sulle testimonianze di chi all'epoca aveva lavorato sul materiale e credo che il risultato sia molto vicino a quello che Visconti aveva voluto. Aggiungo che il film, che ebbe una quantità di problemi enormi, tra i problemi che ebbe proprio all'ultimo secondo, poco prima dell'uscita in sala, ci fu che il nome della famiglia, il nome di Rocco e della sua famiglia, il cognome di Rocco e della sua famiglia, era un cognome di una personalità lucana di un certo potere, il quale minacciò la produzione di denunciarla se il film fosse uscito con i protagonisti con il suo cognome, e quindi all'ultimo secondo fu cambiato il cognome, e solo che c'era soprattutto nei manifesti dei match di box il cognome era anche scritto sui muri, e quindi è stato fatto un lavoro di cancellazione e sostituzione del nome, operazione che oggi con il digitale sarebbe semplicissima, insomma sarebbe possibile. All'epoca, con i mezzi della pellicola, era un'operazione molto complicata, e quindi queste pecette si vedono molto nell'inquadratura, ma abbiamo deciso di mantenerle proprio come segno dell'epoca, come ferita del film, che non ci sembrava giusto eliminare. Così come, ecco, come al solito abbiamo proceduto con le tecnologie digitali, cercando di tenerle a freno, ecco. Sì. Di modo che gli spettatori abbiano quasi l'impressione di assistere ad una proiezione in pellicola. Gianluca, in chiusura, qual è la modalità di uscita il 7 marzo? Beh, esce in molte sale italiane, esce in una cinquantina di sale in tutta Italia. A Roma saremo il 14, lunedì 14, saremo al Farnese e nei giorni successivi. Il Farnese è la nuova sala dove usciamo, è una sala storica, è una monasale, una sala di una volta ma molto confortevole, e mi sembra anche di capire dalle nostre prime uscite anche molto amata e molto riconoscibile. Poi per me, che sono bolognese, e sono felice di andare in una delle piazze più belle del mio paese, e in più di fronte c'è una pizzeria che adoro, al taglio. Noi bolognesi non abbiamo diritto ad una pizza al taglio così buona, quindi ho motivi in più per venire. Un abbraccio, Gianluca, e a presto. A te, ciao ciao. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna sul restauro del film Rocco e i suoi fratelli, in uscita in sala il prossimo 7 marzo a Roma dal 14. Eccoci con Riccardo Rodolfi, regista del documentario Urge, in uscita in sala oggi, giovedì 3 marzo. Riccardo, benvenuto al Visionari su Radio Onda Rossa.

con una squadra che deve fare i conti con i tesseramenti dei propri giocatori, che addirittura pur avendo il permesso di soggiorno non possono giocare a calcio, perché la FIGC richiede un permesso di soggiorno di almeno 3 anni per poter iscriversi ai campionati. Senti, dallo sport al cinema, come avete pensato questa messa in scena documentaria di un'avventura sportiva? Ma guarda, in realtà noi la storia l'avevamo, e avevamo anche in un certo senso l'arco narrativo. Sapevamo che il film sarebbe cominciato con la ricerca da parte di Antonio, che il presidente della Napoli United, è uno dei protagonisti, che doveva iscrivere appunto i suoi giocatori al campionato federale, e sapevamo che il film sarebbe finito con la fine del campionato. Ovviamente non immaginavamo che la storia sarebbe andata in questo modo, e volevamo fare tantissime osservazioni, cosa che in realtà abbiamo anche fatto. Poi abbiamo giocato anche un po' con la docufiction, perché dovevamo ricostruire alcuni momenti, come per esempio il momento legato ai tesseramenti, e dovevamo costruire un climax narrativo forte, e soprattutto non volevamo raccontare solamente il calcio, ma volevamo raccontare anche la vita degli altri protagonisti, che poi sono un migrante, un italiano di seconda generazione che parla napoletano strettissimo, si chiama Adam, e poi abbiamo uno dei pochi apolidi presenti nel territorio italiano, che è nato a Napoli, non è stato riconosciuto dal padre, è figlio di una clandestina che non l'ha dichiarato all'anagrafe, e a 23 anni si ritrova ancora senza documento. È proprio una palla della burocrazia italiana. Senti Pierfrancesco, quanti atleti coinvolge questa squadra, questa avventura calcistica, e poi quant'è il loro seguito, quante persone li seguono? Ma devo dire che il calcio a Napoli ovviamente è pane quotidiano, e i campionati professionistici, però appunto delle piccole squadre, delle squadre di periferia cosiddette, sono in realtà molto seguite. A Napoli, la Pro Napoli è molto seguito, ha un bacino di circa 150-200 tifosi, e ci sono alcune partite che sono particolarmente sentite, anche perché diciamo, oltre alle varie squadre di periferia, ci sono le squadre che fanno riferimento ai centri sociali, quindi ti capita di vedere, che ne so, Afro Napoli Stella Rossa o Afro Napoli Locomotive Flegrea, quindi insomma c'è anche questo immaginario che molto molto carino dietro questa storia della squadra. La squadra invece è composta più o meno da una trentina di elementi, a due squadre, a una juniores e una squadra diciamo ufficiale. In realtà i giocatori cambiano continuamente, nel senso che ci sono tantissimi migranti che si allenano con l'Afro Napoli, ci sono tantissimi ragazzi che vanno a fare dei provini per l'Afro Napoli, perché ormai è diventata una squadra veramente forte. E ci sono poi c'è uno zoccolo duro composto dai capoverdiani, che sono circa 6-7 elementi, perché poi a Napoli c'è questa storia, esiste questa colonia di Capoverde da tantissimo tempo, che ha colonizzato il quartiere Montesanto, e ci sono tantissimi ragazzi capoverdiani, che poi sono italiani in realtà, perché sono nati in Italia e parlano perfettamente il dialetto italiano. Addirittura i napoletani conoscono c'è questo dialetto ibrido, che è un creolo fondamentalmente, che è un misto tra il dialetto portoghese e il dialetto napoletano. È una cosa fantastica di parlare. Senti Pierfrancesco, dopo la partecipazione a diversi festival, che succederà di loro di Napoli? Ma noi andremo di nuovo ad altri festival, alcuni ci hanno già invitato, ma ancora non possiamo dire quali sono, perché non è uscito il comunicato stampa ufficiale, e poi stiamo provando a mettere in piedi una distribuzione. Non sapremo se usciremo con una grande distribuzione a giugno, oppure se lanceremo un tour del film a partire da metà aprile, ma sicuramente il film si vedrà si vedrà in giro e si vedrà tanto, si vedrà sicuramente a Roma, a Napoli, a Palermo, a Milano, insomma un po' nelle grandi città italiane. Ovviamente chi vorrà organizzare delle proiezioni in giro per l'Italia non deve fare altro che contattarci. Ecco, su internet dove si può cercare? Allora, c'è una pagina Facebook che si chiama Loro di Napoli, Afro Napoli United. C'è la pagina dell'Afro Napoli United dove potete seguire anche diciamo le avventure calcistiche della squadra, e poi c'è un sito che si chiama loro di Napoli afronapoliunited.com. Benissimo. Dove c'è tutto, c'è dalla rassegna stampa alla sinossia ai prossimi eventi. È stato un piacere, Pierfrancesco, un abbraccio, a risentirci presto. Un abbraccio a voi, forza Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi. Ciao. Pierfrancesco Lidonni, regista del documentario Loro di Napoli. Eccoci con Vieri Razzini di Teodora Film per parlare della nuova distribuzione del film Il figlio di Saul, in uscita in sala il 7 e 8 marzo. Vieri, ben ritrovato. Grazie mille, ben ritrovati voi. C'eravamo sentiti a fine gennaio per l'uscita in sala, poi c'è stato l'Oscar come miglior film straniero per questo titolo di un esordiente di 38 anni e riesce ora in sala. Intanto ti chiedo subito, come mai questa decisione per due date secche? Beh, insomma, sai, non è un film semplicissimo, abbiamo pensato che valeva la pena di provare questo metodo tipo evento, diciamo. Sì, sì. No? Contando sul fatto che avrebbe vinto l'Oscar. Ce l'aspettavamo, naturalmente non è mai detta l'ultima parola, perché ci possono essere così, però era francamente un film davanti al quale gli altri finivano per impallidire, che è una vera opera d'arte, per quanto possa essere considerato un film duro, eccetera, però insomma non è paragonabile ad altre cose. Infatti è venuto fuori il premio. Sì. Contando su questo, vediamo, è un esperimento naturalmente, mm-hmm. È un esperimento, però usciamo con 130 copie e vediamo come va. Sì. Per chi ci ascolta, Vieri, allora si tratta di un gruppo, la storia è quella di un gruppo di prigionieri che nel campo di Auschwitz... Scusa, vuoi dire... No, vai tu. Allora, si parla di un Sonderkommando ad Auschwitz. Il Sonderkommando era un gruppo di uomini ebrei, naturalmente prigionieri, i quali erano obbligati fare il lavoro sporco della cremazione nelle camere a gas e della dispersione delle ceneri, perché naturalmente i nazisti avevano organizzato tutto molto bene, ma però poi il lavoro lo facevano fare ad altri, che è una condizione veramente terribile, perché appunto tu sei costretto a diventare giustiziere dei tuoi simili, quindi veramente atroce. E una di queste persone, uno di questi componenti del Sonderkommando, che è appunto Saul, a un certo momento, durante questo ritmo di lavoro frenetico e cieco, no? Perché per sopravvivere sono tutti esseri che diventano come non pensanti, della specie di automi, crede invece di riconoscere il cadavere del proprio figlio. Crede, lui è convinto, insomma, però questa è una cosa che viene lasciata, e allora si mette in testa di fargli avere una degna sepoltura e non questa cosa spaventosa delle cose di camere a gas. Mm-hmm. E proprio per questo incomincia a cercare un rabbino in mezzo a tutti i prigionieri. Mm-hmm. E alla fine poi c'è un tentativo di evasione da Auschwitz, eccetera, inutile vi racconti. Certo. Ieri partiamo dal punto di vista tecnico, dall'aspetto tecnico, che mi sembra un elemento portante del film. Dicevamo la scorsa volta che utilizza un 4:3 per restringere il campo visivo, c'è un ritmo forsennato piuttosto innovativo rispetto alla tematica trattata, è la prima volta che si vede affrontata in questo modo, e un uso spaventoso del suono. Sì, beh, moltissimo è dato dal suono più che dall'immagine, perché Nemes affronta questa cosa comunque terribile proprio, insomma te la mostra senza mostrarla, ecco, non vuole assolutamente indugiare sull'orrore, quindi tutto è quasi suggerito, è visto di scorcio per attimi, per bagliori, eccetera, e però appunto questa colonna sonora ricchissima, attraverso la quale i comandi dei tedeschi, le voci in varie lingue tra l'altro dei prigionieri, eccetera, si ricostruisce moltissimo, si ha proprio quella sensazione molto forte dell'atmosfera, di quello che sta succedendo, diciamo. Più che tecnica, io parlerei proprio di stile per una certo, volta. Certo. Proprio grandissimo stile, una cosa sorprendente da parte di un signore al primo film, no? Che evidentemente ha pensato molto bene, molto a lungo, che cosa fare. E voi sapete che c'è sempre stata una discussione, secondo me, sacrosanta, in realtà sul predominio assoluto del documento per quanto riguarda la Shoah sulla ogni possibile ricostruzione. Sì. E qui per la prima volta ci troviamo davanti a una ricostruzione che è perfettamente plausibile, ma non solo, ma è perfettamente morale. Cioè non c'è l'ombra dello sfruttamento, del compiacimento, non c'è nulla di tutto questo, c'è un grandissimo pudore, è un film molto molto casto in realtà. Sì. E forse proprio da questo deriva in realtà la sua forza, insomma, quando un po' più di spettatori lo avranno visto, sì, sarebbe bello poterne riparlare, sì, perché è davvero molto innovativo, sì, il film. L'altro aspetto è quello della scelta tematica. A me sembra piuttosto emblematico le due parti in gioco, se così vogliamo esprimerci. Da una parte una disumanità scientifica nazista, dall'altra spirito di sopravvivenza puro, ed entrambi questi fronti possono arrivare a tutto. Sì, non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. Però diciamo che comunque, come sempre nel caso della Seconda Guerra Mondiale, è quasi ovvio separare il bene dalla male, certo, le vittime ovvero gli innocenti dai colpevoli, dagli aguzzini, eccetera eccetera, e anche qui è così naturalmente, certo. Cioè, però il problema del Sonderkommando, proprio anche storicamente, è una cosa di cui si è parlato pochissimo, ed è il fatto che questa è una cosa di cui ha parlato anche Primo Levi in Italia, eccetera, tutti i sopravvissuti ai campi di sterminio hanno avuto un lunghissimo periodo di obbligatoriamente di introspezione, di così, e poi c'è un sentimento anche di vergogna di essere sopravvissuti, e tanto più nel caso dei componenti del Sonderkommando, sì, come un senso di colpa di avercela fatta nonostante tutto, no? Sì, sì, sì. Quindi insomma, voglio dire, è estremamente complessa la faccenda. Sì. Vieri, la scorsa volta mi dicevi di difficoltà distributive in Germania, il che mi sembrava piuttosto interessante. Sai come... Adesso lo vedremo, perché appunto aspettavano di vedere come andava con gli Oscar per far uscire il film. Adesso immagino che uscirà. Ma è molto interessante, è comunque interessante perché tutto il resto d'Europa il film è uscito, insomma, intorno a gennaio, diciamo, va bene? Sì. E in alcuni paesi è andato particolarmente bene, naturalmente in Francia, che tra l'altro poi l'uscita in Francia ha coinciso con l'attentato, vabbè, quindi sono stati chiusi i cinema per due giorni, ma è andato benissimo in Belgio, in Olanda, in Svizzera, in Spagna, eccetera. E invece in Germania appunto tuttora non lo sappiamo, ma immagino, voglio dire, c'è un pubblico colto, c'è una grande elite, eccetera, anche forse era più una timidezza dei distributori che non difficile dire, però certo mi aveva colpito quella cosa. Allora, due date secche per Il figlio di Saul, il prossimi 7 e 8 marzo. Vieri, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Benissimo. Un abbraccio. Ciao. Grazie tante, un abbraccio. Ciao. Vieri Razzini di Teodora Film per la nuova distribuzione del Figlio di Saul. Con Enrico Masi, regista del documentario Lepanto o Ultimo Cangaseiro, al Bergamo Film Meeting il prossimo giovedì 10 marzo. Enrico, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno Roma. Allora, Lepanto, di cosa stiamo parlando? Ma di fatto il dibattito, la polemica parte subito perché questo film finalmente ci permette di parlare del confine che non esiste tra documentario e finzione. E quindi di fatto è il secondo capitolo di una trilogia che ho iniziato con The Golden Temple, che è stato presentato ormai 4 anni, ormai facciamo un film ogni 4 anni durante l'anno olimpico, è tornato l'anno olimpico ed esce Lepanto. Questa volta l'evento olimpico si è spostato in Brasile, come tutti sanno, tra alterne vicende tanti problemi, ma ha prevalso nel documentare, in questo caso sì, nel documentare i disastri ecologici, politici, sociali che succedevano a Rio de Janeiro, ha prevalso la storia personale mia e di Mike Wells, che è lo stesso protagonista del mio film precedente e voce narrante anche di questo film. Quindi di fatto stiamo parlando di un ibrido, di un grande racconto epico, sì, in cui la storia d'amore o la storia personale che Mike aveva a suo tempo a Londra e io in Italia si scontra con la realtà di fare un documentario politico in Brasile e godardianamente prevale sulla sceneggiatura o sul soggetto precedente. Senti, dicevi una trilogia, come era partita l'idea? Era partita già dall'inizio o si è sviluppata strada facendo l'idea di suddividere in 3 capitoli questa storia? No, era partita dall'inizio perché mi rendevo conto che non si poteva concludere una questione così imponente come anche la figura di De Coubertin, gli emblemi, il simbolismo dei giochi, non era possibile trattarlo solo in un film, e quindi sapevo che avrei continuato. Nel frattempo ho anche vinto una borsa di dottorato in pedagogia, che sto terminando, quindi questa tesi di dottorato sullo stesso tema, sull'impatto dei grandi eventi sulle popolazioni locali. Questo tra l'altro credo che anche per Roma sia un tema importante. E, però nel frattempo anche la Caucaso è cresciuta, cioè il nostro gruppo di produzione di autori, e mi hanno supportato, hanno avuto pazienza e siamo riusciti a produrre un lungometraggio. Io credo che sia un film importante proprio nel panorama anche, insomma, della produzione non soltanto italiana, ma insomma qualcosa di più. Senti, come in molti altri casi nel corso della storia, i grandi eventi significano guadagni per pochi e danni all'ambiente inconvenienti, e non solo, danni diciamo generalizzati per quasi tutti. Sì, io mi faccio carico sia nella tesi di dottorato sia come autore di questo film della proposta di un modello di sviluppo differente a livello globale, sostenendo l'impraticabilità o l'insostenibilità del modello capitalista di sviluppo vigente, che si manifesta a sua volta attraverso le Olimpiadi come attraverso anche tante altre manifestazioni egemoniche. Quindi di fatto quello che con il movimento della decrescita o anche con altri movimenti di resistenza di gruppi di azione locale o anche di un cinema resistente, penso di nuovo a Godard, un film come Adieu au langage o anche un film come Belle perduta di Pietro Marcello, sono film in cui il capitale non è, come per esempio in Tarantino, protagonista. Quindi io credo che anche il cinema possa dare un esempio come di uno slow cinema, non so come dire, di un cinema fatto dal basso, ma non qualitativamente dal basso, a livello sì, proprio cooperativo. E quindi questo è il nostro grido di battaglia. Senti, allora, per chi ci ascolta, ci lasci qualche riferimento internet per saperne di più, visto che la proiezione al Bergamo Film Meeting è per il giovedì prossimo 10 marzo, ma per chi non potrà venire e vuole saperne di più, magari può cercare in rete. Sì, Lepanto o Ultimo Cangaseiro, al momento sul nostro canale Vimeo della Caucaso c'è un trailer, e comunque caucaso.info @Lepanto, c'è tutto un sito curatissimo con tutte le note di regia, tutto italiano e inglese. Piano piano distribuiremo il film in Italia e nel mondo, e quindi insomma arriverà anche dopo Bergamo. Comunque ringrazio il Festival di Bergamo, che è stato molto coraggioso, e speriamo in una bella premiere giovedì prossimo. Un abbraccio e alla prossima, Enrico. Grazie a voi, buongiorno. Enrico Masi, regista del documentario Lepanto. Eccoci in extremis con Valerio De Paolis di Cinema Distribuzione per parlare del film Suffragette, in uscita in sala oggi giovedì 3 marzo, al quale abbiamo dedicato la copertina con una foto di scena. Valerio, ben ritrovato. Accidenti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie della copertina. Allora, una storia avvincente, anche sofferta, un migliaio di suffragette finirono incarcerate per il diritto di voto in Gran Bretagna, un diritto di voto che ha cominciato il suo iter alla fine dell'Ottocento e ancora in corso, perché ci sono ancora paesi in cui le donne non votano. Beh, insomma, quella è stata una lotta dura, lunga, che ha dato dei risultati meritati. Poi sai, lo sviluppo dei paesi va avanti con la civiltà, la democrazia. In Inghilterra c'erano i sindacati, e proprio dall'esistenza dei sindacati nasce questo sentimento di uguaglianza che in tanti altri paesi non c'era. Oggi, non so, immagino che in tutti i paesi africani le donne non votano, mi immagino in alcuni paesi dell'Asia che le donne non votano, ma insomma tutto è relativo, è tutto in proporzione al livello di cultura e di civiltà che c'è nel paese. Comunque il film è un film importante, perché racconta un grande momento di passaggio, perché poi questo voto delle donne in Inghilterra a catena ha innescato una serie di rivendicazioni da parte delle donne in altri paesi europei. Quindi poi c'è stato un effetto, ci sono pure degli anni, ma c'è stato un effetto domino, ecco. Quindi questo evento delle suffragette è storicamente importante. Tra l'altro c'è anche un momento sofferto di passaggio dalle dimostrazioni pacifiche che venivano derise e ignorate all'uso di azioni dirette e rigorosamente dirette contro gli oggetti e le proprietà private e con sistemi di comunicazione. Loro hanno le suffragette hanno provato a protestare educatamente, civilmente e socialmente per circa una trentina d'anni, senza essere minimamente ascoltate dal Parlamento o dalla politica inglese, finché a un certo punto hanno capito che dovevano un pochino imporsi e farsi sentire in altro modo, quindi sono passati alla lotta, non dico armata, ma insomma hanno fatto scoppiare delle bombe, hanno cominciato a dare veramente fastidio, tanto che l'opinione pubblica si è dovuta interessare al problema del voto delle donne, e da quel momento poi la politica ha dovuto così tenerne conto. Sì, sì, sì. Subirono una repressione anche durissima, come dicevo all'inizio. Un migliaio di loro finì in carcere. Sono state in galera, molte di loro hanno fatto lo sciopero della fame, sono state bastonate, menate, rotte le facce, insomma come in tutte le manifestazioni pubbliche che sono proibite, poi la polizia ci è di buzzo buono per reprimere, e quindi poi l'Inghilterra è sempre stato un paese democratico da un certo punto di vista, ma con delle regole molto severe, no? Insomma, paese dove tu devi assolutamente rispettare le regole, se no ti mettono subito fuori gioco. Tra l'altro anche a livello sociale non erano sempre ben viste anche dalla popolazione, il che insomma induce anche a riflettere sul grado ma perché non c'era una buona informazione, sì, c'era esatto, una cattiva informazione, esatto, no? Esatto, esatto. I giornali di destra le trattavano come delle pericolose sovversive, senza però dire che la ragione della sovversione era che quelle volevano un po' di rispetto, un po' di uguaglianza, ecco, questo è il fatto. Valerio, da oggi nelle sale Oggi in un sacco di sale, io spero che le donne, ma non solo, ci vadano, perché non è un film pesante, è un film che si vede molto bene, ma che racconta un fatto importante che va capito, che va visto e che va apprezzato, e quindi veramente nel caso di questo film spero che ci sia una buona affluenza di pubblico, non tanto per i soldi quanto per la divulgazione. Tra l'altro l'elemento fondamentale è che la regia è al femminile, insomma. Anche la produzione, sono tutte donne. Perfetto. Quindi meglio così. Valerio, in quante sale da oggi? 124. Insomma, bei numeri. Abbastanza, speriamo. Un abbraccio e alla prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto. Ciao Valerio. Ciao, grazie, grazie. Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione sul film Suffragette, in uscita in sala il prossimo 3 marzo. Visionari termina qui, torniamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15.